Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora, come ampiamente annunciato, oggi ci occuperemo in maniera articolata, ragionata, non populista, del rapporto tra i guadagni dei banchieri americani di Wall Street, non solo, anche alcuni svizzeri e inglesi, e i risultati delle banche d'affari per cui guadagnavano queste cifre. Ripeto, tra l'altro anticipiamo in questo modo, e domani vi invito a leggerlo, un'inchiesta su Plus, il Sole 24 Ore, che ne dico appunto domani, come sempre il sabato, assieme al Sole 24 Ore. Lo facciamo anche perché, come molti di voi avranno letto oggi sui giornali, Barack Obama ieri ha definito scandalosi insomma, alcuni bonus guadagnati da alcuni manager. Qui non si tratta di, premetto subito, né criticare i manager in quanto tale, ci mancherebbe, né fare tutto un erba un fascio. Ci riferiamo alle banche d'affari, principalmente americane, ma non solo, che sono spesso tecnicamente fallite, ossia sono in vita solo perché il governo ha messo i soldi o ha aiutato mettendo soldi altre banche a comprarsele, e per capire che corrispettivo ci fosse in una crisi che, come spesso diciamo, finanziaria morde sempre di più, non ha ancora i volti, non ha ancora i tra virgolette colpevoli, senza essere né populisti né giustizialisti, ma solo facendo cronaca. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, partiremo anche da alcune notizie sul PIL americano, notizie migliori del previsto, poi cerchiamo di capire anche perché. Dichiarazioni che arrivano dal World Economic Forum di Davos, che è ancora in corso e che riguardano anche i temi di casa nostra. I mercati finanziari, come sempre, leggermente in flessione questa settimana, questa seduta il MIB tel meno 0,7%, anche l'S&P MIB, peggio fa Parigi meno 1,3%, Francoforte meno 1,90%, Londra meno 1,2%, lo 0,90% lo perde anche il Dow Jones e il Nasdaq. Euro in indebolimento sia sul dollaro che sulla sterlina, 1,28 sul dollaro, 88 pence sulla sterlina. I titoli che oggi, come si muovono oggi i titoli? Dunque, tra i peggiori, UBI, Banca meno 3,5 come Pirelli, Mondadori meno 3,3, Eni meno 3%, L'Espresso meno 2,7 come Saipem, meno 2,6 Autogrill, meno 2,5 Tenaris e meno 2,4 Prismian, e anche Monte dei Paschi perde il 2,2 come le generali, Mediaset meno 2% come Telecom. Chi va bene invece? Unipol più 3%, Parmalat più 2,9, il 2,5 lo guadagna l'automatica e anche Fiat, l'1,8 lo guadagna Finmeccanica, l'1,5 lo guadagna Mediolanum ed Enel, l'1% è il rialzo di Unicredito e Buzzi Unicem. Ultima cifra, come sempre a quest'ora, quella per i vostri sms, 349-238-6666, qualche minuto di pazienza per un racconto che farà arrabbiare molti, speriamo di riuscire anche a chiarire a tutti quali meccanismi siano saltati. Le notizie in breve. Partiamo da un paio di buone notizie. Il petrolio, nonostante le dichiarazioni dell'OPEC, si conferma intorno ai $40 al barile, $43 al barile. L'Exxon però diffonde i dati del trimestre, l'utile cala a 7 miliardi di dollari, contro gli 7,8 contro gli 11,7 dell'anno precedente. E ancora, per quello che riguarda i titoli legati al settore petrolifero, Chevron ha diffuso anche i sei dati, l'utile trimestrale è salito a 4,9 miliardi. Nei giorni scorsi la ConocoPhillips aveva dato un utile in calo di 31 miliardi di dollari e la Shell meno 2,8 miliardi. Sempre buone le notizie sull'Euribor, anche se poi sappiamo che non sempre questa notizia uno la ritrova allo sportello bancario quando deve negoziare un mutuo o un prestito per un'impresa, l'Euribor al 2,09% ai minimi dal maggio del 2004. E adesso due buone notizie che riguardano una l'Europa e l'altra gli Stati Uniti. L'inflazione in Europa è all'1,1%. È una buona notizia, anche se sappiamo che l'inflazione è così bassa, quasi inesistente per via di un'Europa ferma da un punto di vista economico, in recessione in molti stati, però almeno soprattutto i pensionati, i lavoratori dipendenti, da un'inflazione che rallenta in maniera forte possono avere qualche vantaggio, soprattutto potrebbero recuperare qualcosa come potere d'acquisto o perlomeno non perderlo. L'inflazione è all'1,1% in Europa in media, non era così bassa dal 1999, luglio per la precisione, quindi quasi 10 anni fa. E poi l'altra buona notizia riguarda il PIL americano, perché il dato sul quarto trimestre è di un segno meno 3,8%, ma visto che tutti ci si attendeva un meno 5,5%, tutti gli analisti, gli economisti si aspettavano un calo di quasi 2 punti più forte, ebbene questa va considerata, col periodo e con l'aria che tira, una buona notizia. E bisogna veramente sforzarsi per far lavorare il nostro gallo in questo periodo ormai, diciamo, ampiamente distaccato dal nostro gufo. Andiamo avanti, perché poi la buona notizia è parzialmente una buona notizia secondo molti operatori. Infatti il PIL americano è calato meno delle attese, perché sono aumentate le scorte, visto che i consumi in America sono in caduta libera, le scorte di magazzino, le scorte nei capannoni, e queste scorte poi peseranno sui dati prossimi. Però per ora, almeno il venerdì, teniamoci questo gallo così timido invernale. Andiamo avanti con l'Islanda. Che succede all'Islanda? L'Islanda è in bancarotta, di fatto è a un passo dalla bancarotta. Abbiamo avuto anche alcuni ospiti islandesi, ha beccato un debito che è 4 volte il PIL di un anno. E adesso cosa chiede l'Islanda per non fallire completamente? Chiede di entrare in Europa, e Bruxelles sta valutando una corsia preferenziale pur di facilitare l'ingresso dell'Islanda in Europa. Sono 300.000 abitanti, non mi sembra un gran problema, soprattutto la bancarotta altrimenti sarebbe inevitabile. E ricordo che la settimana scorsa si è dimesso l'intero governo islandese proprio per la situazione economica del paese. E Barroso ha detto che l'Islanda è un paese amico, ci mancherebbe che fosse l'Islanda un paese nemico. Valuteremo come farla entrare. Andiamo sulle operazioni su chi fa shopping o cerca di fare shopping durante la crisi. Non c'è solo l'operazione della Pfizer nella chimica, che però è un'operazione, quella lì, amichevole. Oggi la Roche, colosso farmaceutico svizzero, ha offerto 43 miliardi e 700 milioni di dollari per comprarsi quasi la metà, il 44% di 42 miliardi, scusatemi, per comprarsi il 44% di Genentech. Già un'offerta era stata avanzata a luglio ed era stata rifiutata dagli azionisti di Genentech. L'offerta di luglio era più alta, però con i chiari di luna che ci sono adesso probabilmente gli azionisti potrebbero anche ripensarci. Tra l'altro questa è un'offerta ostile, ma è tutta in contanti, mentre prima veniva un'offerta, uno scambio di azioni. L'occupazione a livello mondiale: NEC, il colosso nipponico delle telecomunicazioni, annuncia il taglio di 20.000 posti di lavoro a livello mondiale. Mentre in Inghilterra proseguono le proteste di carattere oggettivamente xenofobo, razzista, nei confronti degli italiani. E cosa è successo in Gran Bretagna? Gli operai britannici sono scesi per chiedere al premier Gordon Brown di difendere i loro posti di lavoro nella raffineria di Lindsay, nella contea di Lincoln, a causa del contratto che la Total ha firmato con l'italiana Irem per la costruzione di un impianto. Operai e abitanti, in tutto migliaia di persone, protestano perché i 600 lavoratori sono italiani o portoghesi arrivati apposta dall'estero, mentre i lavoratori britannici stanno gonfiando sempre di più gli elenchi dei disoccupati. Occupazione, dato dell'Istat di oggi: nelle grandi imprese meno 2,1%, il calo peggiore dal novembre 2002, ma quello che preoccupa al di là di questo dato è la cassa integrazione. Il dato di novembre, quelli di gennaio non ci sono ancora, neanche quelli di dicembre, però A novembre il ricorso alla cassa integrazione è stato di 19 ore ogni 1000 lavorate, un aumento di quasi 6 ore. Comunque la cosa importante è che il livello di cassa integrazione è il più alto dal 2000 ed eravamo ancora a novembre. Particolarmente alto nelle grandi imprese. Ascoltiamo al microfono del nostro Stefano Totoro il commento del ministro a welfare Maurizio Sacconi. Noi siamo nel vivo di una grande crisi globale ed è purtroppo inevitabile che questa abbia contagiato l'economia reale. Noi non a caso abbiamo avviato un pacchetto di misure per la stabilità, per la liquidità e per l'occupabilità. Ultima notizia sull'Italia riguarda le quote latte, perché il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato il decreto legge sulle quote latte presentato dal Ministro per le Politiche Agricole Zaia. Il decreto in questo modo sana una vicenda che si trascina da 25 anni e che solo nel periodo 2007-2008 è costato all'Italia 160 milioni di euro di multe. E questo decreto arriva dopo un accordo con Bruxelles, lo ricorderete, ne abbiamo parlato anche noi, siglato lo scorso 20 novembre, che ha attribuito all'Italia 620.000 tonnellate di produzione in più per un valore di mercato di 240 milioni di euro. E Zaia, intervistato dal nostro Andrea Viali, ha detto: beh, finalmente si chiude una vicenda che è costata all'Italia complessivamente in questi anni 9 miliardi di euro. Questo decreto pone la parola fine innanzitutto a un contenzioso che noi stiamo trascinando da 24 anni e si produrrà nella legalità, finiremo di pagare le multe perché paghiamo mediamente ogni anno 160 milioni di euro di multa, la nostra contabilità è disastrosa, 3 miliardi di euro di multe pagate, 9 miliardi e la nostra contabilità che ci viene data rispetto alle perdite a livello comunitario. E quindi potremmo dire che dall'inizio campagna, inizierà il primo di aprile, non avremo più splafonamento e più multe da pagare. Questo è uno degli aspetti molto negativi che noi abbiamo. Si chiude finalmente il sipario anche su questo peccato originale che noi ci portiamo quotidianamente in Europa e l'Europa non manca di ricordarci. L'ordine degli assegnatari è rappresentato da i possessori di quota B tagliata e prodotta, che sono oltre 4.000 aziende per un quantitativo di 158.000 tonnellate. Le aziende di pianura e di zone svantaggiate che hanno prodotto oltre la loro quota e sono gli splafonatori e poi infine gli affittuari. 349-238-6666 per scrivere i vostri commenti. Primo tema, come promesso, più volte abbiamo detto, abbiamo parlato molto della casta dei politici, delle caste varie. Ebbene, a Wall Street, nella City, a Zurigo, forse anche a Milano, ma insomma l'Italia ne è rimasta molto meno colpita. Abbiamo scoperto, purtroppo sulla nostra pelle, che esisteva anche un'altra casta, la casta dei grandi banchieri d'affari, i guru della finanza, gli dèi che Tom Wolfe spesso ha raccontato. Insomma, l'Olimpo è venuto giù rovinosamente, meno danni, sta facendo molti danni sugli occupati a livello mondiale, meno danni li ha fatti i portafogli di questi signori. Allora sentiamo il commento di una persona che quando parla da circa 10 giorni in poi il suo peso lo lascia. Ho visto un articolo in cui veniva riportato che i banchieri di Wall Street si sono concessi bonus per 20 miliardi di dollari, lo stesso ammontare del 2004, proprio nel momento in cui quelle stesse istituzioni sull'orlo del collasso chiedono al contribuente di aiutarle. E il contribuente si trova in una posizione di difficoltà, perché se non fornisce l'aiuto rischia di veder crollare sulla propria testa l'intero sistema. That the entire system could come down on top of our heads. That is the height of irresponsibility. Credo proprio che si raggiunga il picco di irresponsabilità. È vergognoso. Chi a Wall Street chiede aiuto allo Stato deve dare prova di disciplina e deve assumersi le proprie responsabilità. Gli americani capiscono che siamo caduti in buche da cui dobbiamo tirarci fuori, ma non apprezzano l'idea che ci siano persone che stiano scavando buche ancora più grandi, proprio mentre viene chiesto loro di riempirle. Avremo colloqui al riguardo con i vertici delle grandi società, perché devono iniziare iniziare ad agire con più responsabilità se tutti insieme vogliamo far ripartire l'economia. Ci sarà il momento per fare profitti e per distribuire bonus, ma non è questo il momento. Questo è il messaggio che intendo inviare alla comunità di Wall Street. Il segretario Geithner ha già respinto le richieste di un'istituzione che stava procedendo nell'acquisto multimilionario di un jet privato, proprio mentre riceveva aiuti dai fondi TARP. Continueremo a inviare questo tipo di messaggio forte e chiaro. Allora, usiamo i Pink Floyd, Money, perché di soldi stiamo parlando, di avidità in alcuni casi. Era Barack Obama, l'avrete riconosciuto, molto duro, politicamente il tema ci sta tutto. Raccontiamo alcuni episodi a cui faceva riferimento il presidente americano. Lasciamo stare il rapporto tra la paga del dipendente medio e del top manager, che è passata da 35 volte a 275 volte. Se uno guadagna 1000, l'altro guadagna 275.000. Lasciamo stare che in America la media dei bonus di uscita, insomma la liquidazione dei top manager delle prime 140 aziende, è stata nel 2007 di 21 milioni di dollari in media. Lasciamo anche stare che la somma distribuita in bonus dal 99 al 2003 per le società quotate a Wall Street ha toccato la cifra di 122 miliardi di dollari. Fin qui tutto bene, se li saranno meritati, sicuramente alcuni di questi se li sono meritati. Il problema è capire cosa hanno guadagnato quelli che invece le banche le hanno fatte fallire. E allora, Merrill Lynch, fallita lo scorso settembre, 37 miliardi di perdite, salvata dalla Bank of America. In realtà i soldi li hanno messi i cittadini americani, dando 20 miliardi di dollari alla Bank of America. Ebbene, mentre il governo americano e la Bank of America cercavano di salvare Merrill Lynch, Merrill Lynch pagava, o meglio i manager si pagavano bonus per i dipendenti per 4 miliardi di dollari. Certo, il pesce puzza dalla testa, si dice anche da noi, o meglio da noi, e quando il tuo capo, ossia John Tain, l'amministratore delegato di Merrill Lynch, aveva speso 1.200.000 dollari per rifarsi l'ufficio e 1.700 dollari per il cestino della spazzatura, non sto scherzando, e poi ammesso sì, forse era un po' tanto, non ho capito se è il cestino o l'ufficio, beh, non ci si può aspettare che gli altri manager si accontentino delle briciole. E poi c'è Fald, adesso arriveremo a Dick Fald, l'uomo della Lehman Brothers, che ha guadagnato tra bonus e stipendi 500 milioni di dollari. Ma la scorsa settimana Fald, per non farsi beccare dal fisco americano e dalle leggi antibancarotta, ha venduto la sua villa in Florida da 13 milioni di dollari alla moglie per 10 dollari. Magari avesse fatto un'offerta, ma non gliene offriva 15, se la comprava per 15. Viene da piangere più che da ridere. Bear Stearns, fallita nel marzo 2008 e finita sotto il controllo di JP Morgan, mentre il titolo crollava, Wall Street praticamente arrivava a zero, il numero uno Jimmy Cain era irraggiungibile, aveva spento il cellulare. Perché? Perché era impegnato in un importantissimo torneo di bridge e partite di golf, giusto per rilassarsi, che, cito solo come nota, che Cain ha incassato tra il 2005 e il 2007 160 milioni di dollari. Vi risparmio gli ultimi due, anzi ve le dico velocemente. AIG, il colosso americano delle assicurazioni, tecnicamente fallita, è costata fino ad ora agli americani 152 miliardi di dollari. La settimana prima, il weekend prima del fallimento, i 70 top manager del gruppo erano a fare una vacanza lussuosissima nei Caraibi, e per un weekend con le mogli, forse anche con i figli, hanno speso 440 mila dollari, camere da letto 1.800 dollari l'una, richieste di spiegazione, hanno detto beh, purtroppo noi l'avevamo già messo in agenda il weekend aziendale, e noi commentammo mica metti in azienda fallimento lunedì e weekend aziendale. Il numero uno di AEG, Sullivan, percepiva, tanto per essere corretti, uno stipendio annuo di 22 milioni di dollari, e poco prima di far fallire AIG si è autoassegnato un bonus da 5 milioni di dollari, si sarà anche dato la valutazione, il voto, un po' come quando uno a 18 anni firmava il libretto a scuola per uscire. Barclays, perché anche gli europei ogni tanto qualcosa insegnano, 8 miliardi di euro di perdite, lo scorso ottobre 80 banchieri, mentre Barclays precipita in borsa, vanno a Villa d'Este a Cernobbio, uno degli alberghi più cari d'Italia, Brunello di Montalcino e Champagne per ragionare meglio sugli effetti della crisi, costo della trasferta 500.000 sterline, 700.000 euro per un weekend. Immagino non abbiano volato low cost, e tra l'altro gli stessi manager erano stati avvistati il weekend prima in Costa Azzurra in un hotel che costava 2.200 euro a notte, e la replica era stata molto stizzita dal portavoce della Barclays, e stanno facendo il lavoro in questo momento di crisi, stanno avendo relazioni con i più importanti investitori istituzionali, che avessero relazioni non avevamo dubbi. Allora, Fabio Pavese, è difficile non essere populista, non essere demagogico quando leggi queste cifre. Voi domani, Fabio Pavese è un collega del Sole 24 Ore, lavora Plus, domani su Plus uscite con un rapporto ancora più serio, strutturato e meno populista del mio. Che cosa avete scoperto? Perché qui stiamo parlando, lo dico a chi scrive, solo di chi... di banche che poi sono tecnicamente fallite o sono andate in bancarotta. Non stiamo parlando di quanto guadagna un manager che fa... e crea dividendo per gli azionisti. Questo è un tema diverso, più legato all'etica. Qui parliamo della produttività dei grandi manager bancari. Ma noi abbiamo cercato di guardare nelle tasche dei grandi capi delle banche, delle grandi banche, quelle che da un anno e mezzo soffrono sotto i colpi della crisi, e non abbiamo fatto altro che constatare quello che Sebastiano ha raccolto in questa aneddotistica, cioè il valore si distrugge per tutti, ovviamente azionisti, investitori, clienti, però questi grandi capi che sono corresponsabili di questa caporetto della finanza anglosassone, perché forse non si è ancora, come dire, avuto consapevolezza piena di questa crisi, perché poi vediamo che ogni tre mesi ai dati di bilancio banche insospettabili annunciano perdite clamorose. È proprio quello punto. Il punto è che stiamo assistendo a un'immane distruzione di ricchezza. Allora, Rubini, quell'economista sconosciuto che è diventato la Cassandra dei mercati, ma che è stato il primo e forse finora forse l'unico a prevedere l'esito nefasto di questa crisi, ha fatto due conti e ha calcolato che gli attivi tossici, cioè quelle attività delle banche non più valutabili, quindi che non hanno un prezzo, carta straccia valgono, cioè le svalutazioni finali complessive, questa è una stima di Rubini, per ora le sue previsioni sono andate tutte ahimè a buon fine, parla di una cifra pari a 3.600 miliardi di dollari di svalutazioni complessive, quindi diventeranno perdite, su un capitale di queste stesse banche che vale 1.400 miliardi di dollari, il che vuol dire che queste banche sono tutte tecnicamente fallite. Noi ci siamo stupiti del fallimento di Lehman Brothers, però Lehman Brothers è stato un caso forse fortuito o disgraziato, ma illudersi e pensare che fosse solo Lehman in quelle condizioni è stato l'errore più grave di sottovalutazione, perché tutte le banche hanno dimostrato che senza aiuti pubblici, quindi dei contribuenti, sarebbero andate in dissesto come Lehman, e sto parlando davvero di sostanzialmente tutte le banche. Ebbene, in questo quadro noi abbiamo questa situazione paradossale, e insomma finalmente Obama ha battuto un colpo, Bush non lo poteva fare, anche perché probabilmente chi aveva nominato a capo di queste banche o dell'autorità di vigilanza era un circuito chiuso, una sorta di sliding doors, dove banchieri andavano poi a lavorare alla SEC piuttosto che alla Fed e viceversa. Beh, anche da noi su questo non scherziamo, sì. Però adesso restiamo sulle banche americane. Ti interrompo un secondo, sì. Fabio, perché abbiamo il metodo della pubblicità, poi tu ci anticiperai alcune delle... dei raffronti tra quanto hanno, sì, perso e quanto hanno guadagnato i banchieri, sì, mentre la banca perdeva. Chi dice Barclays non è fallita, ho capito, è passata da 91 miliardi a 5 miliardi di capitalizzazione. Se questo è un buon motivo per andarsene in vacanza a Villa d'Este a Cernobbio, allora ce lo dicessero anche a noi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per raccontare la follia, non saprei come altro definirla, tra manager, dei dell'Olimpo, dell'universo, che si autoattribuivano stipendi miliardari, perché a forza di milioni ogni anno arrivano i miliardi, mentre le banche che guidavano sono tutte tecnicamente fallite. Che siano ancora in piedi, a differenza di Lehman, è perché o le hanno comprate o le hanno fatte comprare e comunque le hanno fatte comprare con i soldi pubblici. Al 349-238-6666 stanno arrivando molti messaggi. Un ascoltatore diceva, beh, piuttosto che Money dei Pink Floyd, meglio mettere Money for Nothing dei Dire Straits. Di soddisfazione nel fatto che anche alcuni di questi top manager sono rimasti vittime del meccanismo che avevano creato. Oggi scopriamo che molti top manager di Merrill Lynch avevano comprato i fondi del furbacchione Madoff. E poi c'è il club delle mogli fidanzate, ex mogli, ex fidanzate, amanti di tutti i banchieri di Wall Street che si sono riunite nell'anonima mogli dei banchieri, perché i mariti sono sempre in giro per bar, non sto scherzando, è tutto vero, e tendono a tornare a casa ubriachi. Non di boria, ma di whisky a questo punto, visto come si comportavano prima. Allora, Fabio Pavesi, la classifica, alcuni ascoltatori dicono non ci sono le facce. No, domani su Plus, con il Sole 24 Ore, le facce dei geni della finanza americana le troverete, Fabio. Ah sì, ne abbiamo così messi sotto osservazione 8, quelli su cui è stato possibile ricostruire, come dire, le remunerazioni. Il primo ad aprire la lista è chiaramente Richard Dick Fuld, l'unica fallita Lehman Brothers. Ebbene, questo banchiere solo nei due anni, dal 2006 al 2007, che erano un po' gli anni d'oro, peccato che poi 9 mesi dopo la fine del 2007 la banca sia fallita, il caro Fuld ha portato a casa, tra stipendio base, benefit, bonus, pezzi di stock option, la bellezza di 157 milioni di dollari. La banca non c'è più, mentre Bear Stearns ha fatto più o meno la stessa fine, non è fallita ma è stata comprata a un prezzo di 2 dollari per azione, quotava oltre 20 un anno prima, da JP Morgan. Il suo grande capo James Kane, che citava anche Sebastiano prima, nel triennio 2005-2007, che erano i trienni rutilanti della finanza anglosassone, ha portato a casa 159 milioni. Poi arriviamo a Stan O'Neill, un grande capo della Merrill Lynch, anche essa, come dire, oggi non c'è più, non è più quotata, comprata da Bank of America. Ebbene, il signor O'Neill in soli 2 anni ha portato a casa la bellezza di 243 milioni di dollari. Poi arriviamo a Citigroup oramai di fatto non esiste quasi più, cioè la sua capitalizzazione si è ridotta dell'85% rispetto solo a settembre del 2008. Ebbene, l'ex CEO Charles Prince ha portato a casa tra 2006 e 2007 appena 44,2 milioni di dollari, appena ovviamente un eufemismo. Poi arriviamo agli europei, insomma, che non sono stati immuni da questo grande contagio collettivo. Abbiamo Marcelo Spell, l'ex grande capo della Svizzera UBS, simbolo, emblema della finanza elvetica. UBS ha perso il 65% del suo valore da settembre del 2008. Ebbene, nell'arco di un triennio il signor Spell ha portato a casa 52,5 milioni di euro. Manca l'ultimo in questa classifica, un altro europeo, la Deutsche Bank, guidata da Joseph Ackermann, che non si è fatto mancare nulla, perché anche qui nel triennio 2005-2007 ha incamerato 39,2 milioni di euro. Il titolo Deutsche ha perso il 75% del valore di borsa da settembre 2008. C'è qualcosa da dire, qualcosa da commentare? Direi che ormai, insomma, ognuno, per non essere populista, si faccia l'idea che vuole. E poi però, quando si chiede alle industrie, ai dipendenti delle imprese di essere produttivi, qua la produttività proprio era un'altra cosa, era un profumo, un'idea, il nome di un ristorante, non certo un modo di lavorare. E allora, chiarito che purtroppo il delirio è sto collettivo, l'autoreferenzialità totale, non si era riusciti neanche più a capire quanto valessero i top manager che guidavano queste banche, poi spesso nei consigli di amministrazione di queste banche si votavano aumenti per i gettoni di presenza dei consiglieri. È chiaro che se tu ti raddoppi la presenza è più facile che voti a me un aumento del bonus, ma queste sono supposizioni maliziose. Vorrei capire, vorrei tornare, chiudendo con te Fabio, prima di passare alla borsa, all'altra parte della vostra inchiesta, e cioè Rubini, che purtroppo ci ha azzeccato come Cassandra fece, dice le banche mondiali, in primo luogo americane, inglesi, ma anche tedesche, per quello che vediamo, soprattutto tedesche e svizzere, hanno comprato, sottoscritto, investito in prodotti tossici che valgono niente, cioè valgono niente perché nessuno sa più che prezzo hanno o che prezzo abbiano, così non vengo corretto sui congiuntivi, 3.600 miliardi di dollari a fronte di un valore di queste banche di 1.400. È come se avessi 3.600 euro di debiti a fronte, diciamo, di un valore del mio di 1.400. Esattamente, è proprio così. Domanda: perché non dicono subito, invece di continuare con questo stilicidio che dura da settembre, nella fase più acuta, quanto male sono messe? Non lo dicono perché vorrebbe dire esporsi a diventare subito preda di qualcun altro. È ovvio che questo è un gioco a rimpiattino. Faccio un esempio concreto. Il gruppo Ing olandese ha sempre dichiarato, ci sono dichiarazioni, e questo è un altro articolo che pubblichiamo domani su Plus, hanno sempre sminuito la dimensione della crisi. Ad agosto 2007 hanno detto che non avevano subprime in portafoglio, hanno detto che avevano un pacchetto di mutui in portafoglio assolutamente sicuri. Ecco, Ing ha chiuso il 2008 con un buco atteso di 1 miliardo di euro e ha dovuto avere garanzia di intervento da parte del governo olandese per la seconda volta nella sua storia. Ma hanno fatto tutti così. Citigroup, 5 giorni prima di essere salvata, Citigroup ha avuto già 2 interventi di salvataggio. Il primo è del 24 settembre scorso. Bene, il 17 settembre Citigroup, in una presentazione agli investitori, faceva vedere che aveva un Tier 1, che è il patrimonio di base, che superava il 10%. Noi ci scandalizziamo quando le banche italiane hanno un Tier 1 del 6%. Bene, Citigroup diceva: no, io sono solido, ho il 10%, e aveva anche accantonato riserve per eventuali perdite per 24 miliardi di dollari a fronte dei soli 10 di fine 2007. 5 giorni dopo, senza 20 miliardi di iniezioni dirette del tesoro, Citigroup sarebbe fallita. È ovvio che questo è un gioco a nascondino, nel senso che si tende a dilazionare nel tempo, il che provoca un effetto nefasto sulle borse perché aumenta a dismisura l'incertezza. Dovrebbero, una volta per tutte, sotto pressione probabilmente di Obama, di un presidente che li chiama a un tavolo e dice: adesso facciamo un'operazione verità, puliamo i conti definitivamente, trasferiamo questa cosa in una sorta di bad bank, la congeliamo, quella è finanza speculativa, salviamo la finanza dei depositanti, quindi la finanza che ha depositi e impieghi, e il resto lo lasciamo lì, lo accantoniamo. Quando tornerà al mercato su questi titoli liquidi potremo al limite vedere che queste perdite non si tramuteranno in perdite totali. Il problema è che in questo momento non c'è incontro tra domanda e offerte, quindi non c'è prezzo. Allora, su questo, chiudiamo proprio sulla bad bank, poi passiamo anche alla borsa. La bad bank è un'ipotesi che circola da un po' di settimane, la caldeggia il nostro ministro dell'economia Tremonti a livello europeo. L'Europa non è contraria, l'America ci sta pensando. Creare una banca cattiva in cui mettere tutta questa roba. Il problema non è, come alcuni scrivono, quanto vale. C'è un impazzimento tale, generato da questi geni, in primo luogo, della finanza, per cui non ha prezzo. Non è che abbia un prezzo basso, non è che prima valesse 1.000 dollari, adesso il credit default swap vale 1. No, non vale niente, nessuno sa dare un prezzo. Che, immaginate un mercato ortofrutticolo in cui una melanzana non è che passi da 1.000 a 1, non c'è più un prezzo possibile per questa melanzana, o zucchina, o cetriolo in alcuni casi, per meglio dire. L'ipotesi della bad bank può essere, per concludere Fabio, la cosa... Insomma, la soluzione è mettere tutto quanto lì, aspettare che il mercato torni e poi vedere se questa cosa ha ancora un valore. Ma credo che sia da sposare in pieno l'idea di Tremonti. Tremonti fa un ragionamento molto semplice, dice: il sistema bancario va salvaguardato perché è a tutela del risparmio, perché se fallissero le banche ovviamente la ripercussione sul mondo dell'economia reale sarebbe gigantesca, quindi le banche vanno in qualche modo tutelate nonostante gli errori commessi. Però lui divide la parte buona dalla parte cattiva. Lui dice: noi dobbiamo tutelare quelle banche che hanno una funzione appunto di finanziamento del credito per le imprese. Le banche che hanno fatto finanza speculativa, le grandi banche d'affari che facevano sostanzialmente solo quello, possono essere lasciate andare al loro destino, nel senso che quando poi i prezzi sul mercato torneranno, queste bad bank potranno riscambiarsi denaro fra di loro, e a quel punto magari scopriamo che questi asset tossici non avranno una svalutazione per 3.600 miliardi ma magari anche molto meno, però vanno congelate e messe fuori dal sistema, perché sennò il contagio aggredirebbe anche la parte sana delle banche. E contagio si chiama, per esempio, difficoltà che hanno le banche a concedere credito alle imprese, ai cittadini, il fatto che aumentino i soldi o l'interesse per prestarsi, cioè tutto questo intossica come qualunque prodotto l'organismo, anche la parte sana, levalo, asportalo, esatto. Come si farebbe nel caso di un tumore. Esatto. E lascialo, col tumore non fai così, ma lascialo lì e poi vediamo cosa succede fra qualche anno, se quella roba lì che hanno costruito carta su carta può avere ancora qualche interesse, oppure la regaliamo ai nostri figli per farci disegni dell'asilo. Grazie a Fabio Pavesi, e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Plus. minuti di nuovo in diretta, non vi dico gli sms che stanno arrivando, non possiamo più continuare sul tema, vi torneremo. Attenzione, non parliamo abbiamo parlato solo dei manager bancari, quindi è inutile che citiate alcuni casi, tanto ne abbiamo parlato altre volte, Cimoli, Inalitalia FS, Catania FS, quelli erano manager con contratti, purtroppo li aveva fatti il tesoro, ma insomma erano altri manager. Qui parliamo di banche tecnicamente fallite e dei loro numeri uno. Quasi tutte sono americane, ma ce ne sono anche tedesche, svizzere e inglesi. Devo dire che il sistema bancario, che noi per italiano, che noi molte volte abbiamo criticato per altri atteggiamenti, se la sta passando abbastanza bene. Tremonti dice non parlavano l'inglese e quindi erano meno esposte a questa concorrenza. Infatti Unicredit e Intesa sono stati quelli un po' più coinvolti, soprattutto Unicredit perché va molto controllata in Germania e le ha in Austria, nella Repubblica Ceca. È vero, il sistema italiano, un po' per arretratezza, un po' perché le banche popolari di credito cooperativo hanno continuato a svolgere anche il loro ruolo, per ora non se la sta passando così male e va assolutamente detto. La borsa adesso con Radio Core, Il Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, meno 0,8%, bene Milano oggi rispetto a altre borse europee che hanno perso il 2% come Francoforte, l'1,2% come Parigi, l'1% Londra di calo, New York sta perdendo l'1,3%. Oggi abbiamo visto in evidenza Unipol più 3,1% e Fiat più 2,6%. Fiat. Esatto, Fiat oggi è rimbalzata praticamente per una serie di motivazioni. Innanzitutto uno studio positivo di UBS che ha riacceso i riflettori sull'azienda. Poi ovviamente c'è l'attesa per il dettaglio su quelli che saranno gli aiuti da parte del governo nei confronti del settore auto. È già stato detto che il governo interverrà, ma non è stata quantificata la cifra, circolano soltanto delle indiscrezioni. Certo, il quadro continua a rimanere poco roseo. Proprio ieri la casa auto infatti ha detto di attendersi un calo delle immatricolazioni per gennaio del 35-40%, sia per il mercato che per la stessa Fiat, che dovrebbe avere un andamento in linea appunto con il mercato in generale. Ancora sui titoli, diciamo bene, Unipol e Fiat, Parmalat più 2,3%, i conti? Esatto, oggi c'era molta attenzione per Parmalat, visto che la società ha pubblicato i conti di bilancio. In verità, proprio in concomitanza con l'annuncio dei conti, i titoli si sono mossi, sono andati prima giù, poi hanno recuperato terreno. I conti non sono esaltanti, nel senso che il margine operativo lordo del gruppo ha accusato un calo del 13,7%. D'altra parte alcuni analisti hanno festeggiato tra virgolette il fatto che i conti oggi sono stati in linea con le attese. Invece in occasione della pubblicazione degli ultimi conti trimestrali la società aveva sempre sorpreso in negativo. Andiamo avanti con i titoli. Tra chi è guadagnato citiamo anche l'Automatica più 2,3, Mediolanum più 2,2 come Fondiaria, l'1,90% l'ha guadagnato Buzzi Unicem, Finmeccanica più 1,6, Enel più 1,1, Alleanza più 1%. E cito a questo punto anche Unicredit più 0,90, A2A più 0,7, Snam più 0,7, Steam Microelectronics più 0,6, mezzo punto percentuale di rialzo per Atlantia, Mediobanca e la Popolare di Milano. Tra chi più perde, Mondadori meno 4,5%, tra l'altro anche Mediaset ha perso l'1,3%, L'Espresso meno 3,7%. Mondadori, Espresso, titoli editoriali. Sì, esatto, oggi c'è stata una rotazione verso questo settore, cioè ci sono state delle vendite soprattutto nel finale della seduta, non ci sono motivi particolari, proprio pare una rotazione di natura settoriale. Ancora sì, la rotazione qui può essere presa in tanti modi con questa borsa. Comunque Pirelli meno 3,6, Eni meno 3,2, Monte dei Paschi meno 3,2, Tenaris meno 3,1, UBI Bank meno 3%. Eni come mai cala a un livello del 3,2%, Leonora? Guarda, oggi peraltro i titoli energetici in Europa hanno retto abbastanza bene e anzi in America stavano andando bene, confortati dai buoni conti di bilancio. Eni inspiegabilmente è andata male, evidentemente ci sono degli investitori, dice soprattutto istituzionali, che hanno venduto le azioni, ma senza che ci siano motivazioni particolari. Peraltro sono andate male le Eni, ma sono andate male anche le Saipe, meno 2,36%. Ancora sui titoli, le banche oggi abbastanza bene, le stavamo leggendo, tranne Monte dei Paschi, meno 3,2%. Sì, esatto, il Monte dei Paschi è andato male e nonostante le indicazioni positive che sono emerse nel corso di un convegno sul sistema bancario al quale era presente il direttore generale di Rocca Salimbeni, Vigni. Vigni che ha fornito indicazioni positive in quanto ha detto che nel quarto trimestre la banca senese ha registrato un incremento sia della raccolta che degli impieghi, ma evidentemente il mercato non ha preso in considerazione le indicazioni fornite dal manager e ha fatto scivolare le azioni di oltre il 3%. Ancora sui titoli, UBS tra l'altro ha raccomandato anche l'acquisto su Enel, io continuo a raccomandare UBS di raccomandare se stessa, perché con quello che sta perdendo guardasse anche in casa sua, ma va bene, acquisto su Enel, il titolo ha guadagnato l'1,1%. Per quello che riguarda Mediolanum, ci chiedete, l'avevamo già dato il dato, è più 2,2%, i migliori e i peggiori, Cell Therapeutics meno 17%, AXA meno 9,2%, Italis meno 5,6%, i migliori, Edes più 9,9%, Banca Carige sul risparmio, vabbè, più 7,6%, poco altro, Reno De Medici più 4,7%. Ancora per quello che riguarda i cambi, il lavoro dell'euro è debole oggi nei confronti del dollaro, a 1,28 sta scendendo quasi a quota 1,27, nei confronti della sterlina anche lì in indebolimento, sotto quota 90 pence, 88 pence per un euro. Grazie e buon fine settimana, Eleonora, a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Prima di lasciare la linea a GR, poi torneremo, parleremo di Davos e del dato americano e risentiremo anche Obama sui manager, giusto per non dimenticare. Volete sapere come riascoltare alcune puntate? Molti di voi vogliono l'astrologa del 9 gennaio, 9 gennaio è la data dell'astrologa, e così come la puntata di oggi e tutte le puntate di Focus Economia, sul sito di Radio 24, anche in podcast, si possono riascoltare con qualche ora di slittamento, insomma, non un minuto dopo, però insomma si ascolta tutto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo tornare sul tema con cui abbiamo aperto il programma, gli stipendi dei manager delle banche d'affari americane fallite, tecnicamente fallite, e comunque assolutamente inaccettabile la remunerazione rispetto a quello che avevano fatto e hanno creato questi manager. Tutto è leggibile domani su Sole 24 Ore, ripeto, nelle pagine di Plus, pagina 8 se non ricordo male. Adesso ci occupiamo di Davos per capire quale sia la situazione o la valutazione, se c'è una valutazione della crisi, e anche degli Stati Uniti, perché è arrivato anche un PIL americano migliore delle attese, sempre in brusco calo, meno 3,8%, ma migliore delle attese. Alcuni di voi vogliono che facciamo risentire Barack Obama contro i manager, la posizione durissima, politicamente assolutamente comprensibile, e non solo politicamente. Eccovi accontentati. Ho visto un articolo in cui veniva riportato che i banchieri di Wall Street si sono concessi bonus per 20 miliardi di dollari, lo stesso ammontare del 2004, proprio nel momento in cui quelle stesse istituzioni sull'orlo del collasso chiedono al contribuente di aiutarle. E il contribuente si trova in una posizione di difficoltà, perché se non fornisce l'aiuto rischia di veder crollare sulla propria testa l'intero sistema. That the entire system could come down on top of our heads. That is the height of irresponsibility. Credo proprio che si raggiunga il picco di irresponsabilità. È vergognoso. Chi a Wall Street chiede aiuto allo Stato deve dare prova di disciplina e deve assumersi le proprie responsabilità. Gli americani capiscono che siamo caduti in buche da cui dobbiamo tirarci fuori, ma non apprezzano l'idea che ci siano persone che stiano scavando buche ancora più grandi, proprio mentre viene chiesto loro di riempirle. Avremo colloqui al riguardo con i vertici delle grandi società, perché devono iniziare ad agire con più responsabilità se tutti insieme vogliamo far ripartire l'economia. Ci sarà il momento per fare profitti e per distribuire bonus, ma non è questo il momento. Questo è il messaggio che intendo inviare alla comunità di Wall Street. Il segretario Geithner ha già respinto le richieste di un'istituzione che stava procedendo nell'acquisto multimilionario di un jet privato, proprio mentre riceveva aiuti dai fondi TARP. Continueremo a inviare questo tipo di messaggio forte e chiaro. E il caso a cui faceva riferimento Barack Obama ve l'abbiamo raccontato qualche giorno fa. Citigroup, che ha 45 miliardi di perdite e la capitalizzazione è scesa da 255 a 15 miliardi di dollari, ha avuto aiuti dallo Stato per 50 miliardi, ma non poteva rinunciare al nuovo jet per i propri manager, jet privato che costa 50 milioni di dollari. Obama, come avete appena sentito, tramite il segretario del Tesoro Geithner è intervenuto. Vabbè, respiriamo adesso dai manager per non arrabbiarci troppo, mentre Money for Nothing resta. Money for Nothing è quello che hanno guadagnato questi signori. Resta la nostra colonna oggi. Mario Platero, in collegamento dagli Stati Uniti. Buonasera. Eccoci, buonasera. Corrispondente del Sole 24 Ore dall'America. Con te parliamo del, non tanto dei manager americani, anche se la posizione di Obama è molto importante, ma del dato di oggi sul PIL. Meno 3,8% nel quarto trimestre, meglio delle attese. Tutti si aspettavano un meno 5,5%. È vera gloria, ossia è veramente un dato migliore o, come temono alcuni, sono solo le scorte dei grandi magazzini, le scorte... Ma guarda, Sebastiano, insomma, quando ci avviciniamo a una caduta del 4% del tasso di crescita americano, perché di quello stiamo parlando, il 3,8%, ormai parliamo del 4%, tra l'altro dovrà essere corretto, quindi spesso le revisioni poi portano anche delle sorprese, magari anche positive, ma comunque sia siamo nel momento peggiore di questa recessione. I nodi cominciano a venire al pettine, la conferma l'abbiamo, il fatto che non sia il dato peggiore, quindi quello del 5%, che si aspettavano anche 5,5%, gran parte degli economisti con cui avevo parlato anche ieri, proprio fino alle ultime ore, beh, certo, meglio così che addirittura un 5,5, però resta un dato brutto, meglio di quel 6,4% di caduta della crescita che si è avuta nel primo trimestre del 1982, che è stato poi l'ultimo periodo davvero drammatico, difficile per l'economia americana. Direi che la cosa interessante è proprio quella. Qualche economista comincia a dire: un momento, qui le cose stanno andando male, stanno andando molto male, però forse siamo più avvicini a una crisi tipo 1982 che a una crisi tipo 1929. Nel senso che l'aspetto sistemico di questa crisi per ora è stato evitato, la recessione è dura, i disoccupati ormai crescono al ritmo di 500,000 al mese negli ultimi mesi e quindi ci sono tutta una serie di elementi negativi, però non siamo ancora entrati in quella spirale drammatica, non la vediamo ancora per strada, questa recessione con straordinarie quantità di negozi chiusi. Io ricordo l'82 fu un anno molto difficile, furono i risultati della stretta di Reagan, il cambiamento di Reagan, da cui poi si aprì il grande periodo di rinascimento americano. Dunque bisogna riflettere su questo dato. Se andrà in porto la triplice manovra, e cioè quella sul pacchetto di stimoli per l'economia, ormai si parla di 900 miliardi, quindi forti incentivi, forti spese pubbliche, incentivi anche fiscali, quella sulle banche per poter in qualche modo dare spazio a queste banche, stabilizzare il sistema bancario e dunque creare questa bad bank in cui finalmente andranno a finire i titoli tossici, con un pacchetto che ormai sembra si aggiri addirittura tra i 1.000 e 2.000 miliardi di dollari in più rispetto ai 700 stanziati. Se, terzo punto, la Federal Reserve finirà con l'approvare questa possibilità di acquistare titoli del tesoro a lungo termine e quindi di poter finanziare in quel modo la bad bank, ecco che abbiamo un altro, l'ennesimo straordinario pacchetto in termini di dimensioni, di rapidità di esecuzione che dovrebbe sostenere l'economia. Ecco, questa direi un po' la speranza di fondo. Questo non esclude che poi io credo che il primo trimestre sarà peggio del quarto, il primo trimestre di quest'anno, perché davvero si sta cominciando a sentire qualche cosa di peggio rispetto all'ultimo trimestre. Ricordiamolo, poi ci furono anche le vendite natalizie che in qualche modo, nonostante siano andate peggio del normale, hanno comunque contribuito a tenere un po' su l'economia. Quindi secondo me il trimestre peggiore sarà questo primo trimestre. A quel punto avremo un po' tutti gli elementi per sostenere l'economia a posto e si tratterà di capire, di vedere se questo servirà per cercare di passare dalla crisi profonda quantomeno alla stabilizzazione nella seconda metà dell'anno. E questo è importante, voglio dire, certo non è che ci faccia stare bene immaginare che la crisi sia quella dell'82, ma è sempre meglio, come tu ricordavi, che una crisi come quella del 29. Impressionante comunque l'elenco di soldi che sta costando l'America questa crisi, perché mettendo assieme le cifre che tu ricordavi siamo già sopra i 2000, verso i 2400 miliardi di dollari tra soldi veri e garanzie, che comunque significa che lo Stato deve garantire qualcosa, non può usare quei soldi per qualcos'altro. Per cui il giochetto dei banchieri che prima ricordavamo, Fuld, Kane, O'Neill, Prince, Blankfein, Mike, Ospel, Ackerman, quelli domani su Plus, sta costando solo all'America la modesta cifra di 2.400-2.500 miliardi di dollari. Alcuni di voi dicono che piuttosto che bad bank andrebbe chiamata Gang Bank, e la battuta non è male. E in un secondo, anzi dopo le informazioni per chi è in viaggio, Mario Platero, vorrei capire se il tema che mi sembra aver aperto Barack Obama, questa crisi deve avere anche dei volti, delle facce, delle punizioni, sta prendendo piede in America, perché è immaginabile che prima o poi queste persone e i loro numeri 2, numeri 3, a queste persone venga chiesto anche un senso di responsabilità, di contribuire a un risarcimento. Di nuovo in diretta. Allora, Mario Platero, sta prendendo piede, tu ricordavi che questa crisi non morde più Wall Street che Walmart, ossia più la finanza che i grandi magazzini, le catene e la vita quotidiana, anche se si va avanti a mezzo milione di disoccupati in più ogni mese negli Stati Uniti. Sta diventando un tema politico forte, cioè i costi che ha per la collettività americana e per il nuovo governo, la nuova presidenza di Obama sono enormi, inimmaginabili. Sta diventando anche un elemento di polemica nei giornali, nell'opinione pubblica? Temi forti, sicuramente. Vorrei ricordi quando parlavamo molti mesi fa ormai di quanto poteva costare la crisi bancaria, e io ti accennai una cifra intorno ai 2.500-3.000 miliardi di dollari come stima, così a spanne, ebbene sembrava impossibile allora. In realtà oggi, se questi 1.000-2.000 miliardi saranno approvati, arriveremo addirittura a 4.000 miliardi di costo. Quindi quando cominciano a esserci cifre di questo genere in ballo, soltanto per il comparto finanziario, quindi escludendo gli 800 miliardi di dollari, 900 miliardi di dollari di pacchetto di stimoli, è chiaro che il dibattito diventa feroce. Molto interessante sul piano politico l'opposizione intellettuale dei repubblicani, loro ritengono che in particolare per ciò che riguarda il pacchetto di stimolo solo il 30% di questo pacchetto è un pacchetto che davvero porta stimoli veri all'economia in termini di progetti, costruzioni di ponti, di strade, di reali progetti infrastrutturali, costruzioni di reti informatiche e così via, mentre il resto, circa il 60-70%, dicono è soltanto il solito olio che va ad così a oliare i meccanismi, gli ingranaggi della base del Partito Democratico, aiuti, sovvenzioni, aiuti ai sindacati e così via, così via. Quindi la polemica è già partita sul fronte politico. Sul fronte etico-morale mi sembra che l'attacco più forte ci sia stato ieri dal presidente Obama, quando ha definito vergognosa l'atteggiamento di Wall Street, una vergogna, ha detto, questi bonus che si sono pagati. Ha ragione, l'idea, l'impressione, ti dirò che colgo, è che molti di questi banchieri ancora non si sono resi conto né di quello che hanno fatto né del nuovo mondo in cui ci troviamo. Se non lo hanno scoperto, lo scopriranno presto, come lo sta scoprendo John Tyne, ex grande eroe di Wall Street dei tempi d'oro, Goldman Sachs, Golden Boy a Goldman Sachs, poi salvatore del New York Stock Exchange e poi alla fine capo di Merrill Lynch, che oggi è sotto inchiesta dal procuratore Andrew Cuomo. Grazie, grazie a Mario Platero anche per questo aggiornamento. Noi da New York ci spostiamo sulle Alpi svizzere e quindi terza giornata di lavori a Davos. Non la cambiamo, Money for Nothing, tanto è questo il tema oggi. Terza giornata, 2500 rappresentanti, si è parlato chiaramente dello stato della crisi. Come sempre c'è in collegamento da Davos Lino Terlizzi. Buonasera Lino. Buonasera a tutti. Allora, quali riflessioni oggi? Tanto autocritiche, abbiamo capito che i banchieri non ne fanno. Mario Platero ha appena detto, quelli di Wall Street forse non hanno ancora capito cosa hanno creato e che nuovo mondo li aspetta, però cercheremo di farglielo capire anche noi raccontandoglielo. Ma da Davos autocritiche no? Previsioni sì? Poche autocritiche, qualcuna ma poche veramente, però al di là delle autocritiche è chiaro che l'ambientazione è questa, è di crisi riconosciuta. Oggi è stata la volta di voci europee importanti, abbiamo visto nei giorni scorsi, abbiamo sentito Russia, Cina, abbiamo sentito anche altri grandi paesi emergenti, l'India. E però oggi Europa, soprattutto due voci, quella del premier britannico Gordon Brown e quella della cancelliera tedesca Angela Merkel. Gordon Brown ha fatto nuovamente un appello contro il protezionismo, ha richiamato l'importanza del G20 che si terrà all'inizio di aprile proprio a Londra, ma forse l'intervento più atteso era quello della cancelliera tedesca, allora, che non si è sottratta al confronto. Allora Lino, ascoltiamo prima Gordon Brown, poi tu ci racconti anche di Angela Merkel. La nostra prima priorità sono le migliaia, per non dire i milioni di persone in tutto il mondo preoccupate per i loro posti di lavoro, per il loro tenore di vita, per le loro imprese e le loro case. In questo momento, che non ha precedenti nella storia, sono venuto a Davos per dire che politici e manager, tutti noi, dobbiamo far fronte alle urgenze del momento attuale. Il 2008 sarà ricordato come l'anno del fallimento del mercato finanziario globale. Io voglio che il 2009 sia invece ricordato come l'anno in cui il mondo si è unito per trovare urgentemente una soluzione e per costruire il futuro. Io credo che la storia non sia il destino. Possiamo influire sulle scelte future. È tempo per qualcosa di più delle solite analisi e retrospettive. È tempo dell'azione e della fiducia nell'azione. Non è il momento per misure individuali, nazionali, per affrontare la crisi finanziaria globale. È l'ora invece di agire insieme, come una cosa sola, avendo in mente gli interessi comuni e con l'intento di un'azione comune, per affrontare i problemi reali. Così Gordon Brown oggi da Davos, mentre in Gran Bretagna, nella contea di Lincoln, sono proteste durissime, xenofobe, razziste contro gli italiani e i portoghesi. Perché? Perché la raffineria di Lindsay ha firmato un contratto con l'italiana Airem per la costruzione di un impianto. Gli operai sono tutti italiani, 600 portoghesi, e protestano gli operai inglesi perché Brown aveva promesso posti di lavoro britannici. Il contratto l'ha firmato però la Total, appunto, con l'italiana Airem. Angela Merkel, Lino Terlizzi, ha raccolto l'appello di Gordon Brown: no alle politiche individuali, sia politiche comuni, oppure la Germania continua a giocare e a ballare da sola? No, direi che ha fatto un discorso di cooperazione internazionale oggi qui a Davos, senza dubbio, anzi direi che ha fatto una proposta nuova che è stata accolta per ora con un certo interesse, cioè quella di creare un nuovo Consiglio dell'Economia presso l'ONU, un po' sul modello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si è stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È una crisi molto grave, dobbiamo affrontarla insieme, ogni paese ha le sue particolarità, ma il rischio è comune, è globale, quindi questo, dice la Merkel, potrebbe essere uno strumento nuovo per stabilizzare i mercati e le economie e per cercare il rilancio. Poi ha parlato naturalmente anche della Germania, questo era inevitabile, ha rivendicato il pacchetto di sostegno, un pacchetto all'economia, un pacchetto che ha detto letteralmente non si è mai visto nella storia del nostro paese per le sue dimensioni, però binomio, quindi economia sociale di mercato per quel che riguarda la Germania e pareva di capire tra le righe anche un po' tutta l'Europa, ma anche cooperazione internazionale e strumenti nuovi per questo tipo di cooperazione, perché la crisi è di tipo nuovo, non ancora vista sin qui. E poi altri interventi. Questa mattina di nuovo è intervenuta la presidente di Confindustria Marcegaglia, aprendo all'ipotesi di un contratto unico, ipotesi avanzata dal Partito Democratico. Ha detto che bisogna sfruttare la crisi per riconvertire il sistema e dare più potere ai giovani, e quindi evitare la divisione tra i lavoratori anziani di fatto stabili e removibili e i giovani che invece sono precari. Grazie a Lino Terlizzi in collegamento con noi da Davos. Un ascoltatore ci chiede una notizia positiva prima di finire la trasmissione. Siccome siamo in finale, la notizia positiva è che dopodomani è domenica. Da Sebastiano Brisoni le auguro di una buona serata a voi tutti, un buon fine settimana. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.